Il nostro lavoro parte da una rivalutazione delle precedenti analisi, in particolare quella che è stata svolta nel 2011. Abbiamo rilevato due problemi principali. Uno è quello relativo alle stime di domanda, ovvero a quale sarà il traffico futuro tra Italia e Francia, che riteniamo sia stato largamente sovrastimato. Ci sono previsioni che dicono che nel 2050 ci sarà un traffico pari a 4 volte quello attuale. Questo non è verosimile, sia guardando agli ultimi anni, sia considerando quelle che sono le prospettive di crescita economica e demografica dei due paesi. Il traffico potrà ancora crescere, ma sicuramente non avremo più una variazione molto rapida come quella che c'è stata a cavallo degli anni 80 e 90, quando le due economie si sono fortemente integrate e quando i tempi di trasporto grazie ai tunnel stradali vennero ridotti fortemente. Questo è un primo punto. C'è poi un altro elemento più di metodologia che riguarda la stima dei benefici per coloro che passerebbero dalla strada alla ferrovia, e questo nella nostra analisi ridimensiona di molto i benefici. Quello che noi in sintesi concludiamo è che questa linea porta dei vantaggi per i passeggeri, che risparmiano circa un'ora, ma il numero di passeggeri è troppo piccolo per giustificarla. Alcuni studi europei dicono che una linea ad alta velocità è giustificata quando nel primo anno di apertura ci sono almeno 10 milioni di passeggeri. Oggi i passeggeri sono circa 600.000, la nuova linea li farebbe certamente crescere di un po', ma rimaniamo molto lontani dal numero minimo di passeggeri che giustifichi questo tipo di infrastruttura, che in questo caso è anche molto più costosa, essendo evidentemente un traforo e non una linea di pianura. Riusciamo a fare anche qualche cifra anche sui benefici economici o ambientali? Sì, il risultato complessivo è negativo, come hanno già scritto alcuni giornali oggi, per circa 7 miliardi, dato da due diverse componenti: quella che dicevo prima, positiva per i passeggeri, e invece negativa per le merci. Questo risultato negativo è dovuto al fatto che la nuova ferrovia non dà in realtà un vantaggio rilevante per l'inoltro delle merci. La strada rimane comunque largamente competitiva. Quello che accade è che su un segmento, si parla di questi corridoi europei, ma l'oggetto dell'intervento è un piccolo segmento di 50 km su una rete che ne conta 2000 o forse più. Quindi noi andiamo a cambiare una piccola tessera di un puzzle molto più ampio. Questo fa sì che una parte, verosimilmente molto piccola, di merci che oggi viaggiano su strada, domani andranno su ferrovia, ma si tratta di entità molto limitate. Non possiamo immaginare, come nel caso della Milano-Roma, un radicale cambio. In quel caso noi avevamo un'intera linea di 600 km che veniva ammodernata, e in quel caso c'era un bacino di utenza di passeggeri molto importante che utilizzava l'aereo. Questo non può accadere per la Torino-Lione, e quindi i benefici sono molto limitati, e in cascata anche i benefici ambientali. I benefici evidentemente ci sono: tutte le volte che io riduco il traffico stradale riduco le emissioni, però se noi guardiamo a questo aspetto in una prospettiva nazionale o addirittura europea, si tratta di numeri molto piccoli. Si parla di circa 2000, nell'ipotesi più favorevole, 3000 camion che potrebbero passare dalla strada alla ferrovia. Per avere un termine di confronto, sulla tangenziale di Torino ogni giorno circolano dai 60 agli 80.000 veicoli. A livello nazionale siamo a alcune centinaia di migliaia di veicoli al giorno sulla rete. La nostra stima è che le emissioni del settore trasporto di CO2 verrebbero ridotte di meno dell'1%, quindi il beneficio c'è, ma è molto piccolo. In passato su queste frequenze le abbiamo già chiesto anche del tema delle penali, che è spesso il tema agitato dai sostenitori dell'opera. Avete indagato anche su questo? No, questo non è il nostro compito. Noi abbiamo considerato solo i costi di ripristino delle opere già realizzate nel caso in cui l'infrastruttura venisse fermata, e i costi che si dovrebbero affrontare per migliorare la sicurezza della linea esistente. Su questo è importante una precisazione: si è fatto pensare che l'infrastruttura così com'è sia pericolosa. Questo è errato. Se effettivamente fosse così, il gestore dell'infrastruttura dovrebbe chiuderla immediatamente e non potrebbe aspettare altri 10 anni prima che sia realizzato un nuovo tunnel. Si può certamente pensare di fare meglio di quanto oggi la condizione sia verificata, ma non è un'esigenza così urgente. Noi abbiamo quantificato anche questi costi. Invece la parte giuridica di penali è di competenza di un altro gruppo all'interno del Ministero.